E facciamolo Buon buon cantare, cantare, che caro l'ometra metra non è nel filare, filare, e e non non è è filare filare l'ometra, l'ometra, e non è di non è pietra l'uomo, l'uomo, la lumia non è citrolo. citrolo, né citrolo la lumia, che la notte non fa via, e non fa via, Via la notte, che gli stiri stiri fanno botti, fanno fanno botte le botte stiri, a stiri, Luca Luca sali, sali, non c'è mbiri, c'è centembiri, mbira, Luca sala, sala, lu l'ugumento commento, non non c'è c'è sali, sali, non c'è c'è sala, sala, lu l'ugumento, commento, lu lu dinaro dinaro non non piglia piglia vento, vento, non piglia piglia vento, vento, lu lu dinaro, dinaro, calo vino, caluvino, vaci caro. E bacio caro Luvino, caluvino, questa è la la capa capa di di Marranghino. Marranghino, E di Marranghino Marranghino la la trapa, trapa, la la radice radice non non è è rapa. rapa, Non è non è rapa rapa, la la radice, radice, la la palumba palumba, né le pernici. pernici. Né pernici la La palumba, palumba, la la ceramela, ciaramella, la sono sola tromba. tromba. Non sono tromba la ciaramella, Ceramela, non non ha ha gusto, è gusto, è primavera. primavera. E primavera ha Primavera, gusto, gusto, calo, calo, cito, vice, ci va musto. scommusto. Ci va musto, la cito, le Gli scattagnoli scattagnoli ci ci vanno vanno vivo. vivo. Ci fanno vivo le scattagnoli quando Scattagnoli. la giù storto. Ui a tocori!